Letture di Radio 24. Da martedì scorso è in edicola il primo volume della collana I capolavori della letteratura horror, una serie di volumi pubblicati con cadenza settimanale che hanno fatto la storia del genere e che in molti casi sono diventati dei film di successo, da Walking Dead a Io sono leggenda, da American Psycho a Le montagne della follia. Si parte con quello che molti considerano il miglior horror di tutti i tempi, L'esorcista di William Peter Blatty, dal quale nel 1973 William Friedkin aveva tratto il celebre film interpretato da Linda Blair. Ecco il passaggio in cui Chris, un'attrice che si trova a Washington per le riprese di un film, si rende conto che Regan, la figlia dodicenne, sta iniziando ad avere dei problemi di natura inspiegabile. Nel pomeriggio, Chris accompagnò Regan al cinema e il giorno seguente fecero un bel giro con la Jaguar per vedere le attrazioni turistiche di Washington. Visitarono il cimitero di Arlington e la tomba del Milite Ignoto. Regan assunse un'aria quasi solenne e più tardi, davanti alla tomba di J.F. Kennedy, sembrò farsi seria, triste. Fissò a lungo il fuoco perpetuo, poi si aggrappò alla mano di Chris. «Mamma, perché le persone devono morire?» La domanda fu per Chris come una pugnalata. «Oh, Rex, anche tu!» E cosa avrebbe potuto risponderle? Avrebbe dovuto mentire? Non ci sarebbe riuscita. Guardò il viso della bambina, gli occhi che incrociavano i suoi, lucidi di pianto. Era riuscita a leggere nel pensiero. L'aveva fatto così spesso. Era già successo tante volte. «Tesoro, arriva un momento in cui la gente si sente stanca», rispose con tenerezza. «E perché Dio glielo permette?» Chris spalancò gli occhi. Era molto confusa, turbata. Da atea non aveva dato a Regan nessuna educazione religiosa. «Chi ti ha parlato di Dio, Regan?» le chiese. «Sharon». «Capisco». Le avrebbe detto due paroline in proposito. «Mamma, perché Dio permette che le persone si stanchino?» Chris si arrese. Non poteva resistere davanti a quegli occhi inquieti e sofferenti. Non poteva dirle davvero quello in cui credeva. «Sai, Rex, dopo un po' Dio ha nostalgia di noi. Gli manchiamo tanto. E allora vuole che torniamo da lui». Regan la seguì senza parlare. Rimase in silenzio per tutto il viaggio di ritorno. E quell'umore cupo non l'abbandonò per il resto della serata e durante il lunedì. Sembrò tutto passato il giorno del suo compleanno, martedì. Chris l'aveva portata sul set. E quando le riprese furono ultimate, tutto il cast e la troupe cantarono tanti auguri a te per la bambina, davanti a una grande torta. Sembrava tornata serena e felice. Ma dopo cena, una volta aperti i regali, di nuovo l'allegria di Regan parve dissolversi. Il mattino seguente, quando Chris aprì gli occhi, trovò Regan nel suo letto, mezzo addormentata. «Ehi, ma che diavolo... che ci fai tu qui?» le chiese ridendo. «Il mio letto stava tremando». «Che dici, sciocchina?» Chris le baciò i capelli, scostando le coperte. «Urà, nanna! È ancora troppo presto. Quello che sembrava un mattino qualunque era l'inizio di una notte senza fine». Avete ascoltato la lettura di alcune pagine de L'esorcista di William Peter Blatty, venduto a 8,90 € in abbinamento al Sole 24 Ore, primo volume della collana I capolavori della letteratura horror. Letture di Radio 24. Lo scorso mese di novembre, nello Skyline di New York, svetta un nuovo grattacielo, il One World Trade Center, costruito sulle rovine delle Torri Gemelle. Sono passati 14 anni dall'11 settembre, ma i jihadisti continuano a insanguinare il pianeta, titola l'ultimo numero del magazine Il, che al terrorismo islamico dedica uno speciale curato dal saggista americano Paul Berman. Nel suo editoriale introduttivo, il direttore del mensile, Christian Rocca, ricorda che visitando le fosse ardeatine nella sua prima uscita come presidente della Repubblica, Sergio Mattarella aveva detto: «L'alleanza tra nazioni e popolo seppe battere l'odio nazista. La stessa unità in Europa e nel mondo saprà battere chi vuole trascinarci in una nuova stagione di terrore. Pochi giorni dopo, nel suo editoriale sulla Repubblica, Michele Serra aveva definito forzatura retorica l'idea di definire lo Stato islamico come il nuovo nazismo, data l'enorme distanza storica e culturale tra i due fenomeni, scrive Serra. Ma come rivela il recente saggio Islam and Nazi Germany's War, scritto da uno storico dell'Università di Cambridge, l'Islam ebbe un ruolo importante nella costruzione della macchina da guerra nazista. Tra mondo islamico e Terzo Reich ci fu una straordinaria convergenza di interessi geopolitici, alimentata dalle spinte anticoloniali dei paesi arabi, dal comune antibolscevismo e dall'antica convinzione dei tedeschi di aver perso la prima guerra mondiale anche per non essere stati capaci di mobilitare i musulmani contro le potenze alleate. I nazisti, racconta il libro, hanno cercato di non ripetere lo stesso errore e per questa ragione hanno progettato con metodo e rigore una strategia ideologica, propagandistica e militare per sfruttare sul fronte meridionale e nei Balcani l'unità politica e religiosa del mondo islamico. Non che avessimo bisogno di una nuova ricerca storica per sapere che in quegli anni il Medio Oriente vibrava di colpi di Stato di ispirazione nazista, che il Gran Muftì di Gerusalemme viveva a Berlino, a libro paga del Führer, che Mussolini si autonominava spada dell'Islam e che nazismo e un certo Islam militante condividevano l'idea della sottomissione dei sudditi e dei fedeli, la servitù e lo sterminio dei nemici, una visione totalitaria della società e un'incontenibile ossessione antigiudaica. Ma nonostante sapessimo queste quattro cosette, e visto che ci siamo anche della presenza di reggimenti islamici in Fez tra i ranghi delle SS, la puntigliosa ricostruzione del ricercatore di Cambridge lascia senza fiato. Non sapevo, per esempio, che le SS di Heinrich Himmler tentarono di mobilitare alcuni studiosi di Islam per far circolare l'idea che dall'interpretazione di alcune sure del Corano si sarebbe potuto individuare Hitler come il nuovo profeta, autorizzato quindi a completare il lavoro di Maometto. Alcuni mesi dopo, gli esperti di Islam convennero che no, nel Corano non c'erano appigli per spacciare Hitler come il nuovo profeta. Tuttavia, spiegarono alle SS che l'avvento del Führer poteva passare come il ritorno di Isa, cioè di Gesù. Il più entusiasta dei gerarchi era Himmler, ma anche Hitler era un appassionato cultore della mascolinità della cultura musulmana rispetto alla mollezza di quella cristiana che non prometteva il paradiso a chi moriva in combattimento. Ad Albert Speer, Hitler diceva che se nel 732 a Poitiers Carlo Martello non avesse sconfitto i musulmani, il mondo sarebbe stato islamico e la Germania ne avrebbe beneficiato, perché i tedeschi sarebbero diventati seguaci di una religione perfetta per lo spirito e il temperamento germanico. Anche perché, spiegava Hitler all'architetto di regime, i conquistatori arabi non sarebbero resistiti a lungo alle rigidità del clima nordico, naturalmente a causa della loro inferiorità razziale, e quindi sarebbe finita che alla guida dell'impero maomettano non ci sarebbero stati gli arabi, ma i tedeschi islamizzati. Il delirio era a 5 stelle, ma negli ultimi anni della guerra la macchina della propaganda nazista non lasciava nulla di intentato. Dalla promozione attiva del Jihad ai corsi per addestrare i mullah all'interno della Wehrmacht, fino a elaborate discussioni teoriche per escludere gli arabi e i musulmani dai popoli inferiori, in modo da non intaccare la purezza ideologica del razzismo del Terzo Reich. Quelle che avete ascoltato erano alcune righe dell'editoriale di Christian Rocca dal numero di marzo del magazine Il. Nella prima parte dello speciale che il mensile dedica al terrorismo islamico, Paul Berman ripercorre invece la storia del jihad globale. Il jihad globale, nella sua variante sunnita, è iniziato nel 1996 nella forma giuridica della fatwa di Osama Bin Laden, la dichiarazione di guerra contro gli americani che occupano la terra dei due luoghi sacri, poi modificata nella formidabile fatwa, il jihad contro gli ebrei e i crociati. Nel 1996 il mondo, nella sua maggioranza, non aveva mai sentito parlare di Osama Bin Laden, anche se pare che fosse molto popolare tra i plutocrati e i principi sauditi. Ma guardate al Jihad adesso, tra gli insorgenti islamici in giro per il mondo, variamente armati e con varie definizioni religiose. Ogni gruppo è caratterizzato da una propria peculiarità. Eppure tutti trasudano lo stesso sapore fragrante di distruzione, assassinio, millenarismo e superstizione. Ricordo bene l'atmosfera una dozzina d'anni fa, quando un manipolo di scrittori, me incluso, ebbe la temerarietà di suggerire che ci trovavamo davanti a qualcosa che assomigliava alla guerra fredda, una questione di livello globale che sarebbe durata decenni, con guerre calde e scontri nascosti, con la capacità di reclutare molti milioni di persone. Uno scontro di potere che era anche uno scontro di valori. Al fondo una lotta tra la democrazia liberale e i suoi nemici, anche se non c'è bisogno di ricordare che, durante la guerra fredda, un'infinità di altri elementi e di orrori giocarono un ruolo. Questa valutazione fu considerata dai nostri critici melodrammatica ed egocentrica. La reprimenda fu severa. A essere onesto, potete sentire quelle stesse reprimende anche adesso. Ma noto negli anni che le parole delle persone che fanno queste reprimende ora suonano un pochino imbarazzate. Quello che avete ascoltato era un estratto dall'articolo di Paul Berman, Libertà e sottomissione, dal numero di marzo del magazine Il. A corredo dello speciale, Guido De Franceschi e Davide Mottes spiegano le differenze tra le diverse scuole di pensiero del mondo islamico. L'intero mondo islamico ha in comune un solo Dio, un profeta autore della rivelazione, Maometto, un libro sacro, il Corano, e una città santa in cui il credente dovrebbe andare in pellegrinaggio almeno una volta nella vita, la Mecca. I musulmani però non hanno in comune né una chiesa, né un'autorità religiosa suprema, né un'istituzione che elabori un magistero dottrinale di validità universale. Inoltre, già subito dopo la morte di Maometto, i musulmani, a causa di dissidi riguardo alla corretta linea di successione al profeta e in seguito alle guerre che questi dissidi scatenarono, si divisero in varie ramificazioni, note come firqa. Schematicamente, l'attuale mondo islamico può essere diviso nei tre diversi rami che si sono formati già nel VII secolo: quello sunnita, quello sciita e quello carigita o ibadita. I sunniti discendono da quei musulmani che alla morte del profeta accettarono la designazione di Abu Bakr a califfo successore. Grande maggioranza all'interno del mondo islamico, i sunniti si considerano la comunità ortodossa, da cui altri fedeli scismatici ed ereticali si sono distaccati. Tuttavia, anche all'interno del macrocosmo sunnita ci sono approcci differenti, ad esempio in campo giuridico, e si sono sviluppate numerose correnti di pensiero. Nella cronaca recente, ad esempio, si fa spesso riferimento ai salafiti e ai wahabiti, che pur con esiti parzialmente sovrapponibili a causa di motivazioni più politiche che teologiche, hanno origini diverse. Il salafitismo si diffonde nel XIX secolo soprattutto in Egitto, come movimento riformista in relazione alle influenze europee, e sollecita un ritorno alle fonti e alla purezza dell'Islam originario. Poi, con la nascita dell'Islam politico e di organizzazioni come i Fratelli Musulmani, che hanno anche il salafitismo tra le loro ispirazioni culturali e religiose, questo movimento si è indirizzato verso un più spiccato puritanesimo morale e una più decisa chiusura a qualunque influenza esterna. Il wahabismo ha una visione rigorista dei precetti religiosi, respinge la concezione dell'intercessione dei santi, è particolarmente ostile allo sciismo e alle altre credenze, che giudica devianti ed è totalmente chiuso nei confronti del mondo occidentale. Il wahabismo, attraverso la casa dei Saud, che a esso appartiene e che regna a Riyadh, ha accompagnato fin dalle origini la formazione dello Stato saudita. Gli sciiti discendono dai sostenitori di Ali, genero e cugino di Maometto, come califfo successore del profeta. Il loro appoggio in favore di Ali, in contrasto con il resto dei musulmani che appoggiarono un'altra linea di successione, rappresenta la vera frattura con i sunniti. Al loro interno, gli sciiti si dividono in tre correnti principali: zaiditi, ismailiti e duodecimani, che hanno convinzioni diverse sull'interpretazione del Corano o sulla corretta linea di successione degli imam, cioè le guide spirituali e temporali della comunità dei credenti, la prima delle quali, secondo gli sciiti, è lo stesso Ali. Gli Zaiditi, che oggi si concentrano a cavallo del confine tra Yemen e Arabia Saudita, sostennero un successore diverso al quarto imam rispetto agli altri sciiti. Gli Ismailiti, che oggi guidati dall'Aga Khan sono presenti in Pakistan, India, Afghanistan, Tagikistan e in altre comunità sparse nel mondo islamico, assimilarono suggestioni gnostiche e si distaccarono dagli altri sciiti nell'VIII secolo. I duodecimani, che oggi sono maggioritari tra gli sciiti, credono che nel IX secolo il dodicesimo imam nella linea di successione sia entrato in occultamento per sottrarsi ai nemici. Secondo i duodecimani, il dodicesimo imam ricomparirà alla fine dei tempi. Avete ascoltato l'articolo di Guido De Franceschi e Davide Mottes, Islam plurale, dal numero di marzo del magazine Il.